È meglio non provocare. Amico mio, la storia è così, caro Parenzo. Questo dice, so, sì, capisco che... No, sono un po' scioccato, diciamo, signora. Cara... Ma il burka come lo consideri, burka? Cioè, quelli che si coprono anche il volto? Perché non lo fai pure tu? Quello, io, diciamo, soltanto nella zona di paese, del paesino dove stavo prima, mi metto, dove vivevo prima in India, ma solo nella zona lì, perché, diciamo, come qui, un paesino piccolo. Ah, quindi... l'hai messo il burka? Anche sì, là. Sì, sì, sì, ma solo perché lì è un paese, diciamo, un paese piccolo come qua a Camposano, solo in quelle, E perché non lo metti pure in Italia, burka? Non è escluso, non è escluso. Sì, vabbè, c'è la libertà, quando voglio lo metto. Quando... Ah, lo metti pure a Camposano il burka? No, no, quello no, qui no, perché comunque ci sono... la gente qui non capirebbe, non capisce, però no, mi pare che il suo papà però onorevole... non è sbagliato il burka, no, come cosa non è sbagliata, no no, no, si, no. Si può me... senti, ma una preghiera, mi pare che suo padre io sia no... un po' disperato, però sì, tuo padre mi sa che hai dato un dolore a tuo padre, non è che lo vuoi mi convincere sembra. A diventare islamico, sì, mio padre è un po' è dispiaciuto, però sono sempre stato vicino, ma non ho capito, lo vuoi convincere a diventare islamico? No, no, figurati. Te figurati, barbato islamico, nessuno. Pensate cosa succede, sì, lì dentro. È solo Dio che ti fa cambiare idea. Ma tutti dovrebbero diventare islamici, secondo te? Perché c'è questa storia che uno dovrebbe, no, la conversione, il convertire ritorno. Il mondo, no? Sì, vabbè, ognuno è libero. Se vuole, chi vuole essere cristiano, chi vuole essere, diciamo, se qui in Italia c'è tutto, quindi... vabbè, non che è che... L'ideale sarebbe un mondo tutto islamico, però, no? Io non convinco nessuno, non mi... Ma com'è la preghiera? Lo fa da solo, Com'è la preghiera? Una preghiera tipica, cioè una di quelle che fai, com'è? Faccio un esempio così almeno mi rinfresco un po' le idee, come si fa? Beh, diciamo la... La preghiera che fai? Quella quando della quando, sera ormai, quando attacchi, no, perché... la preghiera, com'è fa? Quella della sera. Io, diciamo, vabbè, leggo il Corano. Tipo, quando arabo. Leggi il Corano, perché sai, sì, l'arabo pure, come fa? Sì, perché hai studiato l'arabo all'università. Come no, fa? No, io non lo so, io sono andato in giornalismo, non in arabo. Pure. Ma fammi un esempio, della preghiera, così, tanto per capirci. Per esempio, diciamo... Sì. La, che significa non c'è altro Dio fuori di Allah. E come funziona? Dimmela un po'. Noi, sì, per esempio, le dico... tipo una specie di rosario, come si fa 100 volte, certo, 1000 volte, così. Ma come fa? Come fa? Dimmi un po' come si fa. Quando preghi, come fai? Dico la. Poi? No, ma intonala bene, perché sennò non capisco. Vorrebbe sentire dico. E quanto dura così? 2 secondi la preghiera? Ma che 2 secondi? Vabbè. No, perché poi ci sono anche altre. Ma ti metti proprio là, ma è vero che trascuri un po' i bambini quando preghi? No, io prima faccio mangiare, li faccio ricambio, li vesto, faccio prima a loro, poi quando ho finito, diciamo, ti metti a fare davanti ai cartoni, uno lo mette nella e ti metti a pregare. La colletta, un altro dice, perché è un po' più grande, si sta seduto così, si guarda il cartone e poi io prego. Vabbè, ma io li guardi sempre. Poi c'è una signora che pure li guarda. Ciao Isha. Aiuti. Ciao Isha, ciao. Ciao. I'm a man. I still am. Hey. L'uomo diventa donna e la donna diventa uomo. Ma non c'ha ragione Taormin. Ma che schifo è? Ma che mondo di merda sta venendo fuori? Ma che cazzo sta succedendo? Ma che sta succedendo, ragazzi? Io non ci capisco più niente. Dobbiamo fare meno figli, porca troia. Quanti cazzo siamo? Quanti ne volete di come noi? Guarda quanti siete. Volete altri Cruciani, volete altri Parenzo. Basta fa figlioli, basta fa figlioli. Siamo già troppi. Se si arrischia ancora quel coglione che hai fianco a insultarmi quando non sono lì col telefono, ti giuro, se la settimana prossima sono a lavorare, io vengo lì e lo pesto a sangue, quel coglione. Ragazzi, sono le 2:53, 40 gradi quasi, sto vicino al mare, aspetto che apra un cliente, ma nel frattempo...